Certo ci fu qualche tempesta, vent'anni a mare alla follia, mille volte dicesti basta, mille volte me ne andai via, ma ogni cosa si ricorda in questa stanza senza culla, i lampi dei vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista. Oh mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, t'amo ancora assai, ti amo. So tutto delle tue magie, tu della mia intimità. Sapevo delle tue bugie, tu delle mie tristi viltà. So che hai avuto degli amanti, bisogna pur tirare avanti, bisogna pur che il corpo esulti, ma c'è voluto tanto cuore per riuscirci ad invecchiare senza mai diventare adulti. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, t'amo ancora assai, ti amo. E più ci fa un guardia d'onore, più gli anni angosciano la via, ma c'è forse un male peggiore che amarsi con monotonia. Ora piangi con meno zelo, io mi scateno molto dopo, non avevamo più quasi misteri. Lasciamo un po' il settimo cielo, scendiamo a patti con la terra, però è la stessa dolce guerra. Mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora assai, ti amo.